durante uno studio di storia. Se tornando nel tempo si uccidesse Hitler bambino, il nazismo vi sarebbe stato lo stesso, identico. Hjalmar Schacht, gran cerimoniere delle finanze tedesche, avrebbe trovato un altro soldato psicolabile da proporre e da far finanziare. Ma se si andasse ad uccidere il piccolo Shakespeare, sicuramente nessun principe di Danimarca, nessuna Giulietta ed ancor meno trame per i film di Hollywood. Così, compiuti i due infanticidi, in molti meno si sarebbero spartiti la torta. Ora sei più insipida e modesta della letteratura anglosassone, mentre le finanze degli stessi angloamericani sarebbero arrivate identiche ed abbondanti al nuovo Reich. Di Majakovskij, noi siamo il coro Majakovskij. La, lai lai la, lai lai la, lai lai la, la, la, la. Ed anche se state ben nascosti, ma su chiusi dentro i vostri caschi, vedremo, canteremo, urleremo di Milano. Che stiamo ancora facendo, che stiamo arrivando, che siamo un'altra storia, noi siamo la memoria, noi siamo la speranza, lo scatto della stanza, noi siamo gli avamposti, noi siamo il coro, il coro, il coro, vagon di Majakovskij. A destra laggiù, a sinistra, a sinistra, la, così! Questo, più, questo! Attaccalo! No, attaccalo qui! Sette serpenti cantanti, una fattoria coi recinti, brava gente che sta a servizio, così zio senta il vizio. In Africa, in Africa, ne comprati solo tre, ne comprati solo tre, ne comprati solo tre. Distanti! Africa, Africa, Africa, Africa. Sono il lupo che gira intorno alla tua culla. Sono il lupo che aspetta a te. Sono il lupo che fa sì che tu cresca. Sono il lupo che gira intorno alla tua testa. Sono il lupo che aspetta a te. Sono il lupo che costruisce ogni cosa. Sono il lupo che gira intorno alla tua casa. Sono il lupo che aspetta a te. Sono il lupo che sono il lupo che gira intorno al tuo segreto. Sono il lupo che aspetta a te. che sperde di bosco, sole lupo che è lupo di nascosto, sole lupo che aspetta te. Sole lupo che ti parla la vergogna, sole lupo che da dentro ti sogna, sole lupo che aspetta te. Sono il lupo che sono il lupo che con la sessuta di sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che ti cose le forme, sono il lupo che segue le forme, sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che ti trova un lavoro, sono il lupo che ti fa credere nell'oro, sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che accarezza il suo agnello, sono il lupo che affila il suo coltello, sono il lupo che aspetta te. Sono il lupo che grida aiuto, sono il lupo che al lupo, sono il lupo che canta per te. Sono il lupo che ti toglie dalla gara, sono il lupo che